L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, in diretta come ogni settimana per raccontarvi l'Europa da altri punti di vista. Le coordinate subito per trovarci anche virtualmente via Facebook e via Twitter, chiocciola Euronet Plus R24, oppure il mio account personale, chiocciola Federico Taddia, euronetplus.eu invece è il portale del network al quale apparteniamo, e come sempre vi consiglio di visitarlo. Tanti aggiornamenti, tante notizie, tante reportage in tante lingue diverse. La cultura, cuore portante di questa Europa, tante volte lo abbiamo detto, ci crediamo e ci piace testimoniarle, quindi oggi non possiamo che partire da lì. Radici significa le origini e la base della nostra storia. Ci sostiene. Invece i percorsi sono i percorsi che Matera ha fatto per arrivare fin qui. Però da portare e rinnovare nel futuro. Perché noi possiamo insegnare nuove cose ad altri paesi. Mettiamo in mostra quello che già abbiamo. Per far conoscere gli altri popoli anche le nostre capacità. Se la Basilicata diventa una meta turistica importante, il pericolo poi è che diventi anche un museo a cielo aperto e che noi che ci abitiamo diventiamo delle belle statuine. Erano Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Assisi, Ravenna e Siena le città candidate per diventare capitale europea della cultura 2019. Ieri è stato dato l'annuncio, Matera ha vinto e quindi abbiamo scelto di festeggiare con il sindaco Salvatore Adduce. Buongiorno sindaco. Buongiorno, grazie per questa telefonata. Ha fatto le ore piccole? Eh sì, insomma un pochino, ma non tanto, insomma, siamo sempre molto sobri in questa nostra regione Basilicata e a Matera in particolare. Siamo stati felicissimi, c'è stata una grande festa, però diciamo siamo sempre abbastanza misurati. Poi siamo diventati abitanti culturali e quindi dobbiamo avere un certo aplomb. Assolutamente. Sindaco, come mai Matera? Tra l'altro è stata una gara, però una gara molto molto bella, anche una gara molto collaborativa tra le città. Competitiva ma anche collaborativa, c'è stato un... come mai Matera ha vinto sulle altre città? Io penso che la commissione abbia voluto raccogliere la proposta della nostra città, del comitato, che poi insomma non è solamente la città perché ha partecipato l'intera regione, l'università, le camere di commercio, le due province, persino l'altro comune capoluogo, il capoluogo di regione Potenza. Noi tra Potenza e Matera c'è un rapporto tipo, che ne so, Firenze e Lucca, non so, Livorno e, sì, e Pisa, che non si possono guardare. Abbiamo fatto il miracolo, la cultura ha praticamente riunificato tutto. E la nostra proposta è stata giudicata diciamo meritevole di questo premio importantissimo. Io penso perché veniva da un luogo particolarissimo, non molto conosciuto, anche se Matera ormai ha una sua notorietà, ma insomma sicuramente che non sta sulle prime pagine tutti i giorni come i grandi luoghi dell'arte e della cultura italiana, e abbia voluto la commissione proprio come dire, scrutare fino in fondo la possibilità e l'opportunità che attraverso l'esempio di una piccola città, di una piccola regione possa parlare all'Europa, all'Unione Europea, la Commissione possa, diciamo, far parlare di sé in maniera positiva attraverso un luogo così straordinario come il nostro. Straordinario da tutti i punti di vista, certo, per la sua storia, qui diciamo l'uomo ha messo piede da queste parti tra 8.000-10.000 anni prima di Cristo e non si è più mosso, diciamo noi, cioè non c'è stata mai soluzione di continuità. E poi le grandi sfide, anche abbastanza recenti, parliamo di una città, quella dei Sassi, che viene svuotata completamente tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 60, ma viene costruita una nuova città. Mm-hmm. In quel momento si rischiava di perdere completamente città e cittadini, diciamo noi, mentre invece Matera ha dimostrato di avere la forza di non disperdere quel grandissimo patrimonio, che io lo dico sempre, il patrimonio culturale prima di ogni altro sono le persone, e il rischio che si corre è quello di perdere le persone. proposta che abbiamo fatto noi tende sostanzialmente a evidenziare come tutto questo grande patrimonio che abbiamo e che ci è stato in qualche modo consegnato può essere proiettato verso il futuro. La parola chiave è proprio questa, non fermarsi sulle né a contemplare le cose che già si sono, insomma, esatto, né a crogiolarsi solamente né a disperarsi sui problemi gravi che pure abbiamo, che la nostra società sta attraversando. Io credo che la Commissione abbia visto nel tentativo di Matera un tentativo generoso di riscatto, cominciando a far leva sulle proprie energie, sulle proprie capacità. In qualche modo, io adesso mi fa piacere consegnarvi queste riflessioni, perché voi siete un'emittente particolarmente orientata verso i temi economici. Il Mezzogiorno si è caratterizzato quasi da, insomma, c'è un luogo comune, il Sud che chiede, il Sud che piange, il Sud che palla al piede, eccetera. In questa occasione io penso che la Commissione abbia visto il generoso tentativo di una città meridionale con tanti problemi come tutto il Sud e come tutta l'Italia in questo momento, che invece di chiedere vuole offrire, donare al resto d'Italia, al resto d'Europa un esempio virtuoso di come sia possibile, come dire, rispondere anche ai grandi interrogativi che la crisi economica ci sta ponendo. Certo, partendo dalla creatività, partendo dalla cultura, avete spinto molto su Matera, capitale della cultura, partendo dal il sud d'Italia, quindi una capitale del sud d'Italia, non solo una città, capitale del sud d'Europa, ripartire proprio da lì, come ha detto sindaco, tanti progetti, tante promesse, adesso viene il bello perché tutto questo andrà realizzato. Un'ultima domanda, sindaco, quanto è lontana l'Europa da Matera? L'Europa è molto più vicina di quello che si può immaginare, a cominciare dai temi dell'accessibilità, parlo delle infrastrutture. Una delle nostre disperazioni, lo dico a ragion veduta, è quella che abbiamo descritto troppo spesso questa idea, questa complicazione meridionale. Ci porta alle volte a descrivere la nostra situazione ancora peggio di quanto già non lo sia. Noi abbiamo un aeroporto a distanza di 50 km, raggiungibile in 40 minuti, siamo uno dei capoluoghi di provincia in Italia più facilmente accessibile. Non abbiamo la Ferrovia dello Stato, ma per 100 anni abbiamo sempre detto non abbiamo la Ferrovia dello Stato, siamo disperati per questo. Io invece dico mettiamo a valore ciò che abbiamo, allora l'Europa si avvicina sia fisicamente ma soprattutto culturalmente. Certo. I nuovi strumenti, tra l'altro, tecnologici dimostrano che è possibile fare, non dico tutto, ma quasi tutto. È importante essere connessi in tutti i modi. Grazie sindaco, ci ritroveremo sicuramente nei prossimi mesi qui all'Altra Europa per seguire questo percorso che ci porterà insieme al 2019. Complimenti a tutta la città. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Un Aeropostit, le informazioni per chi sta viaggiando un po' in ritardo, me ne scuso, e poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Aeropostit. Europa 2020, parola ai cittadini. Sapete cosa vuol dire Europa 2020 e quali sono le azioni che associate ad essa? Queste ed altre domande sono contenute nella consultazione appena lanciata dalla Commissione europea per raccogliere contributi e riesaminare la strategia Europa 2020. La Commissione vuole soprattutto capire in quali aree intervenire per migliorare il piano e adattarlo alle sfide del futuro. Per farlo, chiede il parere dei suoi cittadini, che potranno cimentarsi con il questionario online disponibile fino al 31 ottobre. Cittadini, imprese, associazioni e chiunque voglia esprimere la propria opinione hanno la grande opportunità di farlo. Un esame che arriva a 4 anni dall'avvio della strategia, nata con l'obiettivo di far uscire l'Unione Europea dalla crisi e prepararne l'economia per il prossimo decennio. Per partecipare collegatevi al sito ec.europa.eu nella parte dedicata a Europa 2020. L'altra Europa. Un'idea. concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. In Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore. Lui disse bene, ma non era di buon umore. Siamo partiti dalla cultura, siamo passati per la creatività, siamo scivolati a parlare di nuove tecnologie. Adesso ripartiamo da lì, dall'idea, non solo dall'idea d'Europa, ma da quell'idea che l'Europa ti può concretizzare, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità. E lo facciamo con Luca Capra, direttore area promozione tecnologica di Trentino Sviluppo. Buongiorno Luca, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Che cos'è Creatify? Creatify è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nel cosiddetto settimo programma quadro, no? Quello che dal 2007 al 2014 diede opportunità ad aziende e enti di ricerca di finanziare dei progetti. Sì. Creatify ha l'obiettivo di far realizzare delle idee che possono abbinare la il mondo della creatività da un lato al mondo dell'informatica dall'altro. In sostanza il progetto ha emesso un bando al 1° di ottobre di quest'anno, che scadrà a fine novembre, nel quale selezioneremo in tutta Europa una sessantina di idee imprenditoriali proprio che abbinino informatica e creatività. Barcellona, Helsinki, Bruxelles e Trento sono le quattro città indicate dalla Commissione Europea per coordinare l'intero progetto. Lunedì 20 ottobre a Rovereto, presso il Polo Tecnologico, e ci sarà un appuntamento molto importante proprio per presentare tutto questo, dare il manuale delle istruzioni a chi appunto ha un'idea e ha voglia di concretizzarla, giusto? Esattamente, non abbiamo voluto limitarci a emanare un bando contro la Commissione Europea, ma cerchiamo anche di animare, stimolare la nascita di idee e quindi la presentazione a questo bando di idee imprenditoriali che possono avere effettivamente un successo. Allora lunedì abbiamo radunato circa un centinaio di persone, creativi informatici, che verranno a Rovereto, il nostro polo tecnologico, lavoreranno assieme mettendosi attorno a dei tavoli con delle metodologie di brainstorming specifiche che abbiamo adottato, e alla fine della giornata queste persone avranno fra di loro l'occasione di conoscersi meglio per far nascere magari anche collaborazioni fra di loro, ma anche tirare fuori idee che potenzialmente potranno sottoporre al bando. Quindi è un'occasione in cui vogliamo sia informare sul bando nei dettagli, ma anche far sì che le persone si incontrino e magari nascono delle cose che altrimenti magari, se non ci fossimo stati noi, non sarebbero potute nascere. Trentinosviluppo.it per il bando invece, www.creatify.eu, così ve l'ho letto come è scritto, questi sono i siti di riferimento. Luca, c'è un invito finale che vuoi fare, da cosa si riconosce una buona idea? Allora, l'idea secondo me consiste in due aspetti. Da un lato l'idea deve essere innovativa, quindi deve proporre qualcosa che non c'è per poter vendere. Ma non basta solo l'idea, bisogna anche confezionarla in modo da renderla un prodotto che poi sia appetibile al pubblico, perché se l'idea è meravigliosa, innovativa, ma a nessuno interessa, non vendrai nulla. Quindi in genere si può parlare, diciamo, di un'idea tecnologica innovativa alla base, ma deve essere condita o inscatolata in un buon business plan, cioè un business plan, un business model che la renda un prodotto che tutti vanno poi a comprare. Grazie davvero a Luca Capra, direttore area promozione tecnologica di Trentino Sviluppo. Ci ritroveremo prossimamente qui all'Altra Europa per capire appunto queste idee in cosa si sono concretizzate. Ciao e buon lavoro. E tanto. Europostet. Stage per 38 giovani della Regione Piemonte. La Regione Piemonte, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, offre 38 tirocini con rimborso spese della durata di 12 settimane presso varie aziende in Francia, Spagna, Inghilterra e Malta. I candidati devono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni ed essere disoccupati e residenti in Piemonte. Inoltre devono parlare almeno una lingua tra inglese, francese o spagnolo a livello B1. Il programma prevede anche 3 settimane di corso di lingua con rilascio di attestato di partecipazione. I curricula andranno inviati entro il 31 ottobre 2014 all'indirizzo euromobilita@consorziomestieri.it. Partenze tra il 25 gennaio e il 1 marzo 2015. Per saperne di più, visita il sito consorziocairos.org. I'm sailing away, and I hope that you remember me. It was fun, we had our run, hip hip hooray. You said hello, I love you so, just like in a movie scene. Continuiamo a seguire questo filo conduttore della puntata di oggi: contaminazioni, connessioni, cultura, idea, creatività. Ci aggiungiamo anche mobilità. E l'Europa è fatta, questa strana ricetta che però ci piace, la torta che ne esce. Si chiama Garage Erasmus, l'abbiamo già conosciuta, è una fondazione che mira a costruire una rete professionale per la generazione Erasmus, generazione colonna e spina dorsale di questa Europa. C'è stata una 2 giorni che si è appena conclusa presso l'aeroporto Galilei di Pisa, luogo non scelto a caso, proprio per tentare di rendere quasi permanente l'esperienza Erasmus, o meglio quelli che sono i frutti, quelli che sono i valori, quelle che sono le creatività legate a questa esperienza. Diamo il benvenuto a Marco Mazzini, cofondatore e vicepresidente di Garage Erasmus. Ciao Marco. Ciao Federico, come mai, a tutti. Come mai un aeroporto come ufficio? Beh, l'hai già detto tu, insomma, l'aeroporto è il nostro luogo di elezione. Abbiamo l'ufficio, abbiamo questa applicazione che stiamo sviluppando che si chiama Check-in Europe. Check-in è la nostra parola chiave, no? Il luogo la prima operazione che fai quando devi partire con un aereo, ed è anche la parola chiave dei social network, e la nostra applicazione digitale è di fatto un social network professionale. Quindi l'aeroporto è e sarà sempre di più il luogo nel quale organizzeremo gli eventi in giro per l'Europa nel programma G4City, G4Cities che abbiamo avviato ieri. Marco, Garage Erasmus non nasce come appunto un'associazione goliardica e di nostalgici di un bel periodo della propria vita, no? Cioè, volete prendere quell'esperienza che tante vite ha cambiato in meglio, però si cresce, si fanno nuove esperienze, si entra nel mondo del lavoro e voi cercate di ottimizzare tutto questo creando una rete comune con chi ha fatto un'esperienza comune. Esattamente, noi il progetto di Garage Erasmus ha proprio questo obiettivo, di rendere l'altra faccia dell'Europa, che è scritta nell'ultima frase del nostro manifesto che abbiamo letto 2 anni fa al Parlamento Europeo, un motore di sviluppo. E crediamo che gli oltre 3 milioni di ex studenti Erasmus che hanno avuto un momento della loro vita che quasi sempre ha cambiato la loro vita, qual è stata l'esperienza Erasmus, siano una fonte fortissima di energia e di possibile cambiamento. Questo in una duplice direzione, perché attraverso la rete professionale che stiamo mettendo in piedi, che è potremmo definire la più grossa alumni del mondo, no? Certo. L'idea è quella di dare opportunità di lavoro mobile ai membri, gli ex studenti Erasmus, quindi qualcuno che è partito all'Italia, è andato a fare un'esperienza, che so, a Berlino, a Lisbona o a Londra, che grazie alla nostra piattaforma trova lavoro lì, si insedia lì, e viceversa ovviamente, da un lato, e dall'altro la possibilità di mettere queste persone in contatto con investitori, business angel o anche altri potenziali partner per creare una startup. La parola chiave in questo caso è mobilità, perché la mobilità è un fattore differenziante nello sviluppo economico, un fattore sempre più forte, sempre più importante nell'economia contemporanea, e quindi noi crediamo che la generazione Erasmus sia la generazione mobile native, non nel senso che c'ha un telefono in mano, anche quello, ma perché ha preso e tutti quanti sono partiti, sono disponibili a viaggiare, a muoversi in tutto il mondo e a partire dall'Europa. Una generazione tra l'altro non di sola andata, e questo anche, insomma, no, cioè, crediate tanto in questa cosa, nel senso che la mobilità ha valore quando è andata e ritorno, quando... Ma assolutamente, ci sono ormai tantissime testimonianze di persone più o meno giovani che ormai vivono la propria casa non più soltanto dove sono nati e cresciuti, ma in tanti contesti diversi, e che amano anche viaggiare, amano lavorare, e che specialmente nel caso dell'Erasmus mantengono una connessione speciale con la città che li ha ospitati. Mm-hmm. E proprio per questo noi in questi due giorni abbiamo fatto partire la seconda gamba di Garage Erasmus, che è il coinvolgimento delle città. Noi abbiamo lanciato questo progetto che è GA4Cities, e le GA4 saranno le associazioni locali, sì, che sono come dei circoli locali messi in piedi da ex Erasmus, che coinvolgono, grazie al supporto dell'amministrazione comunale, sono venuti all'aeroporto i rappresentanti di tutti i comuni in cui hanno sede queste associazioni locali, e in queste città l'associazione si prende l'impegno di organizzare i meet-up all'aeroporto, che sono incontri che possono avere varia natura, mini job fair, cioè incontri tra aziende e persone che vogliono lavorare nella città, incontri di matching tra investitori e start-up, eccetera. E la caratteristica di questi incontri è che per uno o due giorni persone selezionate dall'associazione locale provenienti da tutta Europa, magari ex Erasmus di quella città, arrivano e lavorano insieme, e questo dà proprio il senso e il sapore del tipo di iniziativa, no? Che volete fare, certo, no, è assolutamente significativa. Erasmus.org è il sito per conoscere appunto al meglio l'associazione e tutte le attività proposte. Grazie Marco, alla prossima. Grazie a voi. Adesso un Aeropostit, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Aeropostit. Food Selfie, condividi i sapori europei. Siete in ferie in giro per l'Europa? Siete in un altro paese europeo per studio, lavoro o formazione? E magari state per mangiare e siete davanti a delle tapas, a una crepa, a un piatto di haggis? Scattate una foto del vostro piatto preferito, anche se poco famoso. Abbinatela a uno scorcio della città in cui siete e pubblicatela su Instagram con l'hashtag EUFoodSelfie e IT2014EU, contribuendo al racconto social dell'Europa dei sapori e dei luoghi inaspettati che si sta svolgendo sull'account ufficiale della presidenza italiana del semestre dell'Unione Europea. Per vedere le foto, instagram.com/IT2014EU, e per saperne di più e rimanere aggiornati sulle iniziative del semestre a guida italiana, italia2014.EU. L'altra Europa. If you wanna, but I'm going back to school. You know I miss that old long-nosed teacher of mine. I'm going back to school. I'm gonna get me a diploma, or I'll die trying. I'm going back to school. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa. Chiocciola Federico Taddia, se volete seguirci anche su Twitter e su Facebook, dove pubblichiamo minuto per minuto tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Adesso stiamo tornando a scuola, un back to school che ha promosso l'Unione Europea in queste settimane con un'iniziativa formativa, divulgativa, per raccontare che cos'è l'Europa ai ragazzi delle scuole dal 13 al 24 ottobre, con 250 funzionari italiani che sono stati invitati a tornare nelle proprie scuole d'origine, scuole primarie, scuole superiori, per raccontare agli studenti che ora siedono sugli stessi banchi che cos'è l'Europa. L'Unione torna a scuola. Abbiamo quindi invitato Jasmine Battista, membro del gabinetto del vicepresidente Oettinger, responsabile per l'energia, che ha fatto la scuola tedesca a Roma e appunto lunedì prossimo tornerà nella sua scuola. Buongiorno Jasmine, benvenuta alla Altra Europa. Buongiorno. Hai studiato? Sei pronta per rientrare a scuola? Sì, sì, ho studiato cosa raccontare ai ragazzi. Sì, perché insomma ti interrogheranno. E, tra l'altro, facci capire il tuo lavoro, in cosa consiste in questo momento? Sì, io sono consigliere politico del commissario tedesco, come hai detto giustamente tu, che adesso dal 1 novembre si occuperà di economia digitale, comunque, quindi passa a telecomunicazioni, internet, eccetera, e finora ha fatto energia, quindi io mi occupo di tutto quello che è consultare sulle politiche europee in tema di energia, ma anche di concorrenza, aiuti di Stato, tutte le cose legali, perché sono giurista. Ok, vivi a Bruxelles, immagino? Vivo a Bruxelles da tantissimo tempo, poco dopo la scuola in realtà, perché con uno dei programmi europei come l'Erasmus e il Leonardo sono andata a studiare a Bruxelles e poi non sono praticamente più tornata. Storia che abbiamo già sentito tante volte. E, beh, insomma, ci sarà anche un po' di emozione, credo, nel ritornare nella tua scuola. E, cosa racconterai ai ragazzi? Da dove partirai per far assaporare l'Europa? Ma io penso che gli racconterò un po' intanto della mia storia, perché penso che è bello per i ragazzi vedere che l'Europa non è così lontana dai cittadini e che siamo in realtà persone come loro che sono sedute nei... Ah, aspetta che mettiamo giù al volo e ti richiamiamo, perché c'è la linea disturbatissima, direi. Pippo in regia, intanto mettiamo l'Europost-it così ci prendiamo questa segnalazione e poi torniamo in diretta con Jasmine. Europost-it. Una nuova app rivolta a studenti e insegnanti per comprendere al meglio il funzionamento dell'Unione Europea. Siete alla ricerca di materiale didattico interessante e stimolante sull'Unione Europea? Siete giovani e giovanissimi e vorreste capire com'è nata, come opera l'Unione e quali sono le sue politiche? La rappresentanza in Italia della Commissione Europea ha lanciato una nuova app rivolta a insegnanti e studenti, dove poter trovare tutte le risorse che state cercando. L'angolo degli insegnanti contiene ogni tipo di materiale dedicato a 4 diverse fasce d'età. Nell'angolo dei bambini, invece, si può imparare a conoscere i propri diritti di europei giocando, guardando cartoni animati e video, con l'aiuto di Oli, Ana e dei loro amici. Per saperne di più, collegatevi al sito europa.eu/teachers-corner e europa.eu/kids-corner, oppure alla pagina Facebook della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Una app per raccontare meglio l'Europa alle scuole, invece c'è chi andrà in carne ed ossa a raccontare ai propri compagni di classe 2.0, nel senso che sono passati un po' di anni. Che cos'è l'Europa? Con noi c'è Jasmine Battista, abbiamo ripristinato la linea. Jasmine, dicevi, partirai dal raccontare la tua storia. Sì, sì, penso che appunto è bello che loro sentano un pochino come... compagni loro possono avere anche altre idee e interessarsi, essere curiosi e anche scoprire che cos'è l'Europa da vicino. Insomma, e poi ti faranno, immagino, un sacco di domande. Hai preparato però anche tu un quiz, mi dicono, per i ragazzi, vero? Sì, sì, ho preparato un quiz per i ragazzi per vedere quanto loro conoscono di Europa prima di parlare io dell'Europa. E poi così anche per cominciare un po' giocando racconterò varie storie legate anche all'Europa, rincontrerò dei ragazzi dai 14 ai 17 anni che per circa 160, quindi comunque è bello fare anche un quiz per giocare insieme, scoprire che cosa sanno di Europa, che cosa si può imparare, ovviamente fargli anche venire voglia, diciamo, di scoprire un po' di più, magari di passare un anno all'estero per poi tornare in Italia e approfittare dell'esperienza acquisita. Quante sono le lingue ufficiali dell'Unione Europea? Questa è una delle domande che hai preparato. Le varie opzioni sono 12, 27, 30, 24. Prima di dare la risposta esatta, ma questa domanda, se tu la fai a qualche tuo collega, tutti la conoscono la risposta? Beh sì, da noi più o meno si sanno, anche se effettivamente con le nuove adesioni cambia costantemente, quindi bisogna sempre aggiornarsi. La risposta corretta era 24. Grazie davvero Jasmine e bocca al lupo per questo ritorno tra i banchi. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Carli si rinnova secondo il piano predisposto dal Duce. Rione e Schiavonia, che con quelli di Carmine e di San Martino è compreso nel programma di risanamento edilizio della città, il ministro ai lavori pubblici Sua Eccellenza Cobolli Gintu dà il primo colpo di piccone alla presenza di un'enorme folla acclamante al Duce. Vediamo ora la bella modernissima casa stadio Arnaldo Mussolini dell'Opera Nazionale Balilla. Cinegiornale sul programma di risanamento edilizio a Forlì, è un filmato dell'Istituto Luce del 1936 e con questo audio sempre così particolare che ci fa viaggiare immediatamente nel tempo. Diamo il benvenuto a Matteo Camporesi, socio fondatore dell'associazione Spazi Indecisi di Forlì. Ciao Matteo. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Uno strano modo avete scelto per raccontare l'Europa, un pezzettino d'Europa. Che cos'è Totally Lost? Sì, dunque, Totally Lost è un progetto che è nato nel 2013 dalla collaborazione fra Spazi Indecisi, che è appunto l'associazione culturale di cui faccio parte, e il progetto Atrium. Atrium sta per Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Urban Management, ovvero il progetto Atrium si occupa appunto dell'architettura dei regimi totalitari del XX secolo. Sì. Mentre Spazi Indecisi invece è un'associazione che si impegna, diciamo, a riportare i luoghi abbandonati alla memoria collettiva, quindi farli rivivere attraverso organizzazione di eventi culturali. Uh-huh. Da questa collaborazione è nato un progetto partecipativo che è appunto Totally Lost. L'anno scorso abbiamo lanciato come associazione un bando internazionale e abbiamo raccolto una serie di foto e video relative appunto alle architetture abbandonate dei paesi partecipanti al progetto Atrium. E in questo momento siete a Lussemburgo con una mostra che racconta cosa? Sì, dunque, al bando hanno risposto tantissime persone, abbiamo ricevuto quasi 2500 fotografie e più di 4 ore di girato. Da tutta Europa? Da tutta Europa, sì, anche in realtà anche da fuori dall'Europa, perché ci sono fotografi ad esempio dagli Stati Uniti, dal Canada, che poi hanno esplorato l'Europa e ci hanno mandato i loro scatti, alcuni sono davvero molto belli, abbiamo scoperto posti assolutamente incredibili e diciamo che raccogliendo tutto il materiale e cercando di dargli anche un'organizzazione anche un po', diciamo, a livello di contenuti, abbiamo creato appunto prima una piattaforma e poi una mostra che è stata inaugurata l'anno scorso a Forlì. Sì. All'interno dell'ex deposito SITA, che è un edificio del 1935, quindi un edificio razionalista, ed è stato protagonista della mostra tanto quanto le foto che c'erano dentro, diciamo. Certo. E quest'anno con l'ingresso di Atrium, con il riconoscimento di Atrium come itinerario culturale europeo da parte dell'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, appunto, che si trova in Lussemburgo, abbiamo portato la nostra mostra in Lussemburgo alla Fondazione dell'Architettura e dell'Ingegneria di Lussemburgo. Esposta lì, totallylost.eu è il sito della mostra, spaziindecisi.it è il sito della vostra associazione, atriumlinetacee.eu il sito di Atrium. Matteo, al volo, perché abbiamo davvero una manciata di secondi, c'è una foto che secondo te meglio delle altre rappresenta il cuore del vostro progetto? C'è un luogo che si chiama, che è un monumento che si trova a Buzloja in Bulgaria, è fondamentalmente in mezzo al nulla e sembra un'astronave, è un monumento ai 90 anni dalla fondazione del Partito Socialista Bulgaro ed è un posto che ci ha assolutamente lasciato a bocca aperta perché sembra veramente provenire da un altro pianeta. E vi invito a guardare il sito, a scoprire questo e tutti gli altri luoghi e vi ricordo che la mappatura è aperta, quindi chiunque voglia partecipare può registrarsi su totallylost.eu e mappare un luogo abbandonato relativo a un regime totalitario europeo del XX secolo. Grazie davvero Matteo Camporesi, socio fondatore di Associazione Spazi Indecisi di Forlì. Buon sabato. Grazie a te, ciao. Neuropostit, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Ti sogno Lituania. Possibilità di scambio giovanile a Kaunas. Avete tra i 18 e i 30 anni e desiderate respirare l'atmosfera del Baltico a dicembre? L'associazione In Progress Calabria propone uno scambio giovanile internazionale sull'imprenditoria sociale in Lituania. Se volete mettere in pratica il vostro inglese, rafforzare il vostro senso di solidarietà con ragazzi provenienti da Regno Unito, Romania, Spagna e Turchia, inoltrate la vostra candidatura per More Than Money, Social Entrepreneurship Heroes. Il bando scade il 5 novembre. Tutte le informazioni sul sito inprogress-calabria.it nella sezione news. L'altra Europa. Ci sono tanti modi per testimoniare il proprio amore per l'Europa e sapete che ci piace andare a scovare storie, altre storie di altra Europa, come quella che vede protagonista George Alexandre, cittadino europeo, così ama definirsi, che ha deciso di difendere i diritti umani e lo ha fatto scegliendo una sorta di provocazione. Ha scelto il kayak per difendere gli immigrati, kayak per il diritto alla vita, un progetto forte, un progetto importante di testimonianza, un kayak che ha accompagnato George da Lampedusa a Bruxelles per andare a gridare ad alta voce appunto tutto il dramma dell'immigrazione. George è qua con noi, ciao e benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno. George, cosa ti ha spinto a partire da Lampedusa col tuo kayak, risalire prima attraverso le coste le coste italiane, le coste tirreniche, poi per quell'autostrada fluviale che percorre tutta l'Europa, arrivare fino a Bruxelles? Avevo vissuto 17 anni in America, principalmente in Canada e un po' in Stati Uniti. Io sono stato totalmente stanco di vedere quello continente che si dice essere un paese, un continente democratico che dà lezione di vita a tutti. E quando sono ritornato nel mio bello continente ho visto che principalmente in Italia il governo di Berlusconi stava respingendo illegalmente gente verso la Libia, dove stavano torturato, violentate le donne, abbandonate nel deserto. È quello che mi ha spinto a fare questo genere di impresa. E tu adesso sei arrivato a Bruxelles, tu hai vissuto a Lampedusa più di un anno, hai visitato Malta, hai parlato con decine sia di immigrati sia di persone che operano sul territorio. Cosa hai portato di tutto ciò a Bruxelles e qual è stata l'accoglienza? Tu ora ti trovi lì, se non erro, stai cercando di parlare, di contattare eurodeputati? La cosa che mi ha colpito di più è che c'è una grande ignoranza veramente dei fondi che sono dati alla immigrazione, soprattutto ai paesi che stanno in prima linea, come la Italia, Malta, Grecia. Sono decine di miliardi di euro che sono sprecate tutti gli anni in questa cosa dell'accoglienza perché è diventato un business. La maggioranza della gente, che sia della Lega Nord, che sia del PD, non sanno esattamente questo spreco, non conoscono questo spreco di denaro. Quindi quello che ho voluto fare è dire sì, dobbiamo intentare di salvare vite, è vero, ma dobbiamo capire perché che tutto questo continua, perché che la situazione persiste essere la stessa, perché c'è denaro indietro. E non è questione di diritto umano, è una questione di denaro e di politica. È quello che io sto intentando adesso di sensibilizzare adesso con gli eurodeputati in Europa. Uh-huh. Sei stato osservatore indipendente redigendo relazioni per il gruppo Everyone per i diritti umani e appunto per il Parlamento europeo. Giorgio, perché hai scelto proprio il kayak e perché hai scelto questa fatica immane? Perché credo che sia stato un viaggio anche molto faticoso dal punto di vista fisico. Faticoso e pericoloso, quasi due volte sono morto in mare, in fiume. Però quello che mi ha fatto scegliere il kayak è che era un simbolo. La gente che viene di Africa a volte sta a 30 centimetri del livello del livello dell'acqua, del mare. Perché? Perché la barca è tan pesata che infatti le persone molte volte quasi si girano. io volevo stare un po' come loro, molto vicino del livello dell'acqua. Se qualcosa succedeva, io volevo anche vivere alcune delle loro impressioni. Vi posso dire che, infatti, l'ho visto varie volte, era questo il simbolo del kayak. E hai incontrato tante persone durante il tuo viaggio, quali sono state le reazioni? Cosa ti chiedevano? Capivano soprattutto? Guardate, io non sono di sinistra o di destra, io non sono per la immigrazione o contro la immigrazione. Quello che ho fatto è veramente di intentare di sapere qual è la verità in termini di immigrazione. Quando nelle spiagge io ho incontrato gente, per esempio, che si dicevano anche fascisti, io parlavo con loro, perché posso capire che ognuno ha la sua visione politica, va bene. Però quando io informavo questa gente di quello che veramente era l'immigrazione, perché che esistiva, perché che noi gli europei pagavamo per questo, invece di dare questo denaro ai nostri salute, il nostro sociale, la nostra educazione, loro dopo cominciavano a dire, ma cavolo, ma questo deve fermarsi, non si può continuare così. Io lo dicevo, per questo che sto facendo anche questo. Io lo faceva firmare in quel momento la petizione che voglio proporre al Parlamento Europeo adesso, ossia un cambio delle leggi dell'immigrazione che sia per trasformare il sistema, che sia buono per loro che arrivano, ma anche per noi principalmente. Giorgio, hai ancora fiducia nei confronti dell'Europa? Sì, io veramente adesso che sto cominciando a imparare come funziona qua il Parlamento Europeo, ogni volta fiducia, ma non mi voglio impegnare in politica, questo no, le conosco troppo bene i politici, però c'è Gandhi che diceva che sì, per esempio, se noi andiamo contro il potere, quello che andiamo a ricevere è un golpe di manganello. Noi dobbiamo stare a fianco del potere senza far parte del potere, rispettare il potere, ma influenzare, sempre dire la verità. Insomma, mi sembra un'ottima dritta. facebook.com/kayak per il diritto alla vita, questa è la pagina ufficiale di Giorgia, per seguire tutta la sua attività, conoscere il suo progetto e magari anche appoggiare la sua proposta. Grazie davvero Giorgia, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie. Anche questa è l'altra Europa, un grazie come sempre a voi per essere stati in nostra compagnia. Questa è l'Europa che comunque ci piace raccontare, quella delle possibilità, quelle delle opportunità. Un grazie alla mia squadra, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, Giorgio De Luca oggi in assistenza e Filippa Orreggi alla parte tecnica. C'è già il gastronauta dall'altra parte del vetro e sarà qui in diretta subito dopo il GR. Ancora buon sabato, l'appuntamento come sempre e a sabato prossimo, ciao! L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.